L'esame di questo anno scolastico 2018-2019 rischia di essere un po' una polpetta avvelenata, diciamo, per gli studenti. Io fortunatamente non ho classi quinte, per cui tiro un sospiro di sollievo, perché avrò modo di concentrarmi su quelle che saranno le nuove modalità d'esame quando queste saranno già rodate, nel senso che quest'anno ci sono parecchi cambiamenti in corso. È cambiata la prima prova, nel senso che il tema è stato ristrutturato per alcune cose. Questo è un cambiamento che io personalmente accolgo in maniera favorevole, al di là della polemica giusta e sacrosanta, pur con qualche limite sul tema storico, ma cambia anche l'orale. Questa è la questione più complessa, secondo me. Viene eliminata la terza prova, perché chi l'ha fatta ne mantiene un brutto ricordo, come una prova complessa che coinvolgeva le materie non di prima e seconda prova. Entrano nell'esame anche l'alternanza scuola-lavoro e percorsi di cittadinanza e costituzione. Ora, io sono abbastanza tranquillo, dicevo, perché non devo affrontare tutto questo, ma i colleghi e anche gli studenti che devono lavorare in direzione dell'esame di maturità si trovano di fronte a un bel problema, nel senso che cambiata la prima prova, cambiata in corso, delle simulazioni sono uscite solo in gennaio, degli esempi, diciamo, di prima prova sono usciti in gennaio, cosa che complica, perché banalmente noi abbiamo sempre lavorato, tutta la scuola italiana ha lavorato per produrre dei testi organici, banalmente questi adesso non vengono più richiesti, anzi si prevede di lavorare su una maggiore paragrafazione dei testi con la sua titolatura, diciamo una modalità più da ricerca o da inchiesta, che, ripeto, può essere una modalità interessante, proposta in corso d'anno scolastico rischia di essere un bel problema. Idem per quello che riguarda i percorsi di cittadinanza e costituzione, trovata interessante, un po' propagandistica, diciamo, cosa ci mettiamo in questi percorsi, in che maniera potranno influire sull'orale. Questi sono dei cambiamenti che sono sicuramente molto, molto importanti, che rendono il cammino da qui a luglio un cammino piuttosto irto di ostacoli, perché veramente ci bisogna confrontarsi con una modalità di esame che è differente e con una preparazione che è quella vecchia, fra virgolette. Insomma, in generale una distanza che si conferma, che poi può creare dei problemi tra il livello ministeriale e quello poi dei programmi e delle scuole. Sì, è naturalmente così. Di nuovo sulla falsariga, proprio ragionando sulla seconda prova di greco-latino per i licei classici. Naturalmente troppo spesso si parla dei licei, si dimenticano poi le altre componenti del settore dell'istruzione come gli istituti, però quella di liceo classico è abbastanza chiara. La settimana scorsa era uscito in pubblica un bel articolo di Federico Condello, che è un ricercatore, un classicista qua dell'Università di Bologna, che analizzava proprio la prova in maniera chiara e diceva che era un qualcosa che non rispondeva alle esigenze della scuola e soprattutto veniva fatta senza tener conto di quelli che sono i percorsi dei ragazzi, ovvero sia proporre una versione di greco o di latino con l'aggiunta di una domanda di contestualizzazione afferente ad autori dell'altra lingua, dell'altra letteratura, rischia di essere un'ipotesi che fa fare bella figura al Ministero, che dice: ok, noi non trattiamo più la versione solo come un mero esercizio tecnico meccanico, tra virgolette, cosa che comunque non è, è un esercizio tecnico meccanico, ma la contestualizziamo in un percorso culturale e facendo una domanda e mettendo un estratto del testo. Ora, una prova di questo genere diverrebbe ancor più complessa di quello che è già complessa una seconda prova, cioè teniamo conto che una traduzione, un problema sono, o immagino un compito di impianti o di manutenzione di impianti per gli istituti tecnico-professionali, sono già di per sé delle prove abbastanza difficoltose. Aggiungere un'ulteriore difficoltà non so a chi serve, non riesce a far esprimere i ragazzi al loro meglio, ma allo stesso tempo complica il quadro per poter mettere una pecetta del dire: ok, noi il Ministero abbiamo fatto un esame finalmente serio, cosa che di cui non c'era assolutamente bisogno, perché per fare un esame serio basta farlo seriamente, basta che la commissione lavori seriamente, basta che i ragazzi lavorino seriamente, e mi sembra questa una delle tante soluzioni un po' all'italiana per cercare di far bella figura. Cioè, teniamo in considerazione che ok, che c'è stato un cambiamento dell'esame, per cui in parte sulla prima prova c'è un cambiamento, quello che dicevi a proposito della difficoltà delle proposte mi veniva in mente a proposito del saggio breve, cioè le cui fonti da utilizzare in molti casi erano molto difficili, soprattutto per studenti che frequentavano istituti tecnici professionali, che facevano fatica a comprendere proprio i riferimenti che erano presenti nel testo. Ecco, abbiamo eliminato questo, però una complessità si vuole inserire da un'altra parte, facendo dei lavori, come diceva giustamente Condello, in fretta e in furia, per cercare di risolvere in 3 mesi un problema o una questione che richiederebbe una riflessione sicuramente più lunga. Sia gli studenti, studenti ma anche i professori sono stati in qualche modo contattati, se c'è stato un confronto, c'è stato comunque, se sono state recapitate delle informazioni rispetto a questo ennesimo comunque cambiamento, sia per quanto riguarda le prove ma anche per quanto riguarda per esempio le modalità per guadagnare i crediti, che poi influiscono abbastanza sul voto finale. Sulla questione del credito è una questione un po' aperta, nel senso che c'è una nuova modalità che però si innesta su un percorso che è già iniziato, per cui lo vedremo secondo me meglio a partire dall'anno prossimo e di lì in avanti, soprattutto quando arriveranno all'esame di Stato gli studenti che quest'anno si sono iscritti al primo anno della scuola superiore, perché lì c'è tutto un grosso cambiamento che si innesta sull'alternanza scuola-lavoro e che si innesta anche sulla nuova riforma degli istituti professionali, altro argomento gigantesco. Il contatto, il dialogo con la scuola c'è stato in ritardo, nel senso che le simulazioni di prova sono arrivate tardi, nelle scorse settimane, nell'ultimo mese, nelle ultime due settimane ci sono stati in tutta Italia dei corsi di aggiornamento veloce con l'ispettore del ministero per capire come svolgere l'esame di maturità, il tutto comunque palesemente in ritardo, considerando che in questi giorni è iniziato il secondo quadrimestre.